la mancanza della stanzetta bianca sullo yacht sequestrato a Flavio Briatore. Ci fermiamo. Il sondaggio, ricordiamo, l'università, questa proposta di abbassare di colpo di 5 anni la pensione per mandare via i baroni, tra virgolette, e ringiovanire l'università. Sono le 8:19 minuti, eccoci qua in diretta nuovamente a 24 mattino con la nostra Deborah Rosciani. L'efficienza energetica e ambientale in azione. Cofeli, gruppo GDF Suez. Vi presenta... Soldi e dintorni. Eccoci Deborah. Ciao, buongiorno. Senti un po', ma se tu avessi l'opportunità di comprarti una casa all'estero, dove andresti a parare? Pagata da me? Non apriamo questa parentesi. Certamente con i tuoi dindini sonanti. Dove all'estero? Dove ti piacerebbe? Così, insomma, te la bruciapelo, ti ha messo così in grande difficoltà? Sì, abbastanza. In Croazia, in Francia, in Islanda, sul vulcano Ejafjall Jökull, sotto il vulcano. Niente. Allora, ci sono tantissimi posti belli nel mondo. Ti lascio pensare. Sì, in Giamaica so dove vorresti andare. Lo so, non in questo periodo però. Allora, ascolta, adesso pensaci. Io intanto faccio l'intervista al mio ospite e poi ce lo racconti. Va bene. Perché? Perché Professione Casa Prestige International, che è una grande azienda operante nel settore dell'intermediazione immobiliare, ha organizzato ieri a Roma, e lo farà anche oggi a Milano, un convegno per fare un po' un punto della situazione, un monitoraggio su quelle che possono essere le opportunità di investimento all'estero. E sì, perché come sapete bene, insomma, questa grande crisi finanziaria è stata determinata anche dal crollo del mercato immobiliare in tante aree del globo, a cominciare dagli Stati Uniti, e poi lo sapete anche in Europa molte aree sono in difficoltà. La Spagna è in forte crisi proprio per il blocco, il congelamento del mercato immobiliare. E allora, se qualcuno in questo momento, a cui non interessa la borsa, a cui non interessano i titoli di Stato, perché anche questo è diventato un mercato molto turbolento, se qualcuno continua ad essere molto affezionato al mattone, non vuole comprarsi la seconda casa in Italia, dove può andare in questo momento? Dove ci sono le migliori opportunità di investimento? Il direttore estero di Professione Casa Prestige International, stamattina con noi, Angelo Cinel, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno e benvenuta a Soldi e Dintorni. E allora, da dove cominciamo, dottor Cinel? Dagli Stati Uniti, il rapporto di cambio adesso è un po' meno favorevole rispetto ad un anno fa, rispetto a 8-10 mesi fa, e però comunque, a parte la valuta, negli Stati Uniti, a parte le zone ovviamente che piacciono a tutti, Manhattan, quindi New York oppure Miami, dove ci sono delle buone opportunità di investimento per un piccolo investitore italiano? Ma io direi che è molto importante fare una premessa. Essendo diventato il mattone all'estero ormai un sistema di diversificazione molto importante per tutti gli investitori italiani, parliamo solo nel 2009 di quasi 32.000 italiani che hanno acquistato fuori dal territorio nazionale, direi che prima di tutto è importante inquadrare quelli che possono essere i criteri per una scelta. Troppo spesso, sia per quanto riguarda gli Stati Uniti che per altre località, noi sentiamo parlare di una scelta guidata da valori al metro quadro, da cambio di valuta, da un insieme di contingenze che sono importanti, ma che da sole non possono dare, diciamo, delle risposte. La cosa fondamentale è vedere il mattone, se vuole essere una diversificazione dei propri patrimoni, come si vedono tutti gli altri investimenti, quindi andare un pochino ad analizzare quelli che possono essere i fondamentali che ci sono dietro uno sviluppo immobiliare in una località rispetto all'altra. Lei ha citato gli Stati Uniti, sicuramente il seminario che abbiamo fatto ieri, ripeteremo oggi con Unicredit, era molto incentrato sul mercato real estate USA. Gli Stati Uniti possono dare all'investitore proprio questa garanzia, ci sono dei fondamentali studiabili a ritroso e assolutamente verificabili anche allo stato attuale delle cose, che portano a pensare una rivalutazione importante nei prossimi anni di quello che in realtà si è svalutato proprio negli anni scorsi. Quali sono le mete preferite degli investitori che state seguendo voi, Cinel? Allora, sicuramente le mete preferite, che rappresentano più o meno un 80% di tutti gli italiani che acquistano con noi o non seguiti da noi negli Stati Uniti, sono la classica New York, che veramente si può definire una cassaforte immobiliare, e poi in secundis Miami, che è una città che sta cambiando decisamente faccia, una città molto apprezzata dagli italiani da sempre sotto l'aspetto turistico, che però proprio per questa presenza di quelli che abbiamo definito prima i fondamentali è destinata a rivalutarsi in maniera molto importante nei prossimi 5 anni. Ma sono solamente queste le due aree? Perché sentiamo sempre solo esclusivamente parlare di queste, dottor Cinel. Per esempio, mi chiedo, a me piace molto la California, ci sono stata una sola volta, ma è un'area che reputo interessante, c'è una buona qualità della vita in tante aree. questa è una zona che per esempio non interessa? No, sicuramente la California, prima di tutto anch'io come lei condivido la bellezza dell'area, però diciamo la California è un'altra, è la terza location dove l'italiano tende a comprare. Però se dobbiamo parlare di numeri, diciamo che sicuramente rappresenta meno del 10% di questi circa 6.000 italiani che l'anno scorso hanno acquistato negli Stati Uniti. Custodisce un po' meno il patrimonio investito rispetto a New York, in sostanza. Credo che il motivo principale sia anche proprio la lontananza, nel senso che comunque il mattone è un investimento che l'italiano vuole toccare con mano, no? Giustamente, è una delle caratteristiche intrinseche a questo tipo di investimento. Parlando di 14-15 ore d'aereo, forse questo frena un pochino l'investimento, che in un'area comunque può dare sicuramente delle buone garanzie. Dottor Cinel, sempre relativamente agli investitori che seguite voi, chi compra una casa, adesso ci soffermiamo negli Stati Uniti, se abbiamo tempo vorrei anche fare un piccolo focus magari sulla Spagna e forse anche sulla Grecia in questo momento. Certo. Chissà se vale la pena anche lì guardare un attimo, ma chi compra la casa negli Stati Uniti lo fa per esempio perché conta di andarci almeno qualche volta l'anno e godersi questo investimento immobiliare o comunque lo mette sempre a reddito? Molto spesso le due cose vengono decise insieme, quindi si tende e si protende in qualche maniera a investire dove poi magari per periodi limitati si utilizzerà anche il bene per una vacanza, per un figlio che magari deve frequentare l'università, per un insieme di motivi. Noi quando consigliamo una persona nell'investire all'estero cerchiamo bene di capire qual è lo scopo principale, perché a volte l'interesse nel utilizzare un bene mi può portare ad investire in una località o anche in una determinata tipologia di immobile che magari non è quella che ottimizza al massimo l'investimento immobiliare. Ormai, come ho detto prima, la diversificazione nella location per quanto riguarda gli investimenti immobiliari sta diventando veramente un qualcosa che ha modificato la forma mentis dell'investitore. Quindi oggi l'investitore compra all'estero principalmente per investire. Dottor Cinel, io ho 30 secondi di tempo, non di più. La Grecia che tipo di opportunità sta manifestando in questo momento dal punto di vista immobiliare? Se ci interessasse veramente dare uno sguardo anche a quest'area in questo momento in forte crisi finanziaria. La crisi finanziaria della Grecia diciamo che deve ancora davvero, secondo noi, colpire in fondo l'aspetto immobiliare. Sicuramente ci sono già state delle ripercussioni, vediamo delle aree dove i prezzi si sono già battuti del 30%, ci sono delle isole, una delle più conosciute agli italiani, Mykonos, dove il mercato ad oggi, con la crisi che c'è, non ha risentito di nulla, anzi sembra che nell'ultimo trimestre addirittura ci siano dei segnali di aumento dei valori. Quindi forse un consiglio che possiamo dare per la Grecia è quello di attendere ancora un po'. Monitorare assolutamente. Allora, io poi naturalmente non abbiamo fatto in tempo, ma magari ne riparleremo un'altra volta. Attenzione poi a denunciare al fisco questi investimenti, perché non è che arriva sempre lo scudo fiscale che ci fa sanare le situazioni che magari abbiamo sottovalutato dal punto di vista fiscale in totale buona fede. Questi sono anche aspetti che Professione Casa toccherà in questo convegno di oggi a Milano. Grazie, dottor Cinel, per essere stato con noi. Buon lavoro, naturalmente. Grazie a lei, buona giornata a tutti. Alessandro. Costa Rica. Ci hai pensato? Mi ha affascinato molto come benissimo. Paese. Paghi tu sempre? Sì, no. Ovviamente. Poi non ti arrabbiare, però, se lo scopri in un secondo momento, che sono stata io a pagarti. Importante la casa. Scoprirlo. Oggi a Salvadanaio parliamo di conti correnti. Da oggi il via libera alle nuove norme sulla trasparenza. Nasce l'indicatore sintetico di costo. Benissimo. Noi parliamo di. Ciao, a domani e alle 12 Salvadanaio. Parliamo di università. Noi, nel nostro sondaggio, c'è questa proposta. Qualcuno ha detto proposta shock. Abbassare di 5 anni di colpo la pensione per i docenti, l'obbligo, non più a 70 più 2, ma a 65 anni tutti in pensione, via i baroni, largo ai giovani. Che ne pensate? È demagogica, populista oppure è uno shock generazionale che servirebbe? E allora ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:34 minuti nel nostro sondaggio di oggi. Parliamo di università. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Università che poi è anche lo specchio del paese, vuol dire anche parlare nel nostro paese, perché qualcuno dice siamo un paese per vecchi e di vecchi. Allora, l'intento e la proposta è chiaro, quello di creare uno shock generazionale. La proposta prevede di abbassare di colpo dall'attuale possibilità della pensione a 70 anni con delle deroghe fino a 72 all'università, abbassarla a 65 anni. Via a 65 anni i docenti dell'università, svecchiare il corpo dei docenti, largo ai giovani, via i baroni. Io l'ho riassunta così, ma è anche un po' enfatica. Che ne pensate? Dovete votare su radio24.it se siete d'accordo, oppure 800 24 0024, siamo in diretta. per gli sms al 349-238-6666. La proposta l'ha fatta Maria Chiara Carrozza, che è direttore della scuola Sant'Anna di Pisa. Buongiorno. Buongiorno. Che ha voluto fare lei? Contro i baroni, lancia in resta, svecchiamo l'università? Assolutamente, intanto non ho mai usato il termine baroni, in realtà la proposta mira a porre il problema. Abbiamo una classe docente che è una delle più anziane d'Europa e abbiamo una coda, un numero di giovani ricercatori che non hanno nessuna speranza di entrare all'interno del sistema universitario per i prossimi anni. Sicuramente ci sono tanti modi per provocare una riforma, anche quello di provocare un ricambio generazionale è un modo di cambiare il modo di gestire l'università, di fare lezione, di fare ricerca. Sì. Questo non significa via i baroni, come è stato detto negli slogan, peraltro usati dai giornalisti. Sempre mannaggia questi giornalisti. Rimediare a due problemi, no? L'invecchiamento e il fatto che abbiamo una classe docente di ultra cinquantenni al 42%, sì. E significa rimediare al problema della diversità di trattamento. Perché i ricercatori vanno in pensione a 65, i professori associati a 67 e i docenti invece i professori universitari a 70? Intanto mettiamo regole uguali per tutti e poi diamo la possibilità a chi va in pensione di continuare a fare ricerca o didattica, se è in grado di farlo, se ha voglia ancora di dare alla propria università. Quindi pensione a 65 anni. Tra i vari critici, tra l'altro adesso la stanno ascoltando gli ospiti che voglio introdurre, ma ieri Mario Pirani su Repubblica ha detto: qualche spiraglio di demagogia sta influenzando il PD. L'insulto di Bersani alla Gelmini è ancor più grave. Il documento sull'università votato all'assemblea del PD e che prevede questo, proprio la rottamazione a 65 anni dei professori universitari, perché voi l'avete presentata, lei l'ha presentata, diciamo, all'interno del PD. Pirani è molto critico, dice: populismo, è demagogia. Intanto oggi Pirani su Repubblica risponde a una lettera di Marco Meloni della segreteria del PD dicendo che non aveva letto il documento e che apprezza il nostro atteggiamento. Questa è una proposta sulla quale discutere, non è un punto di arrivo ma un punto di partenza per porre i problemi veri del Paese, al di là del normativismo. Sparare norme, dobbiamo andare a vedere quali sono gli obiettivi della nostra riforma. Un obiettivo è senz'altro quello di far entrare i giovani, ma anche permettere ai professori anziani che possono dare di avere dei contratti per continuare a farlo, però il ricambio generazionale va provocato, questo è indubbio. Va provocato. Allora, intanto io voglio salutare, la stanno ascoltando, il professor Pasquale Mistretta, buongiorno. Buongiorno a lei. Fino a ottobre 2009 rettore all'Università di Cagliari, è uno dei rettori che è stato più a lungo in carica. Quanto tempo? 18 anni. È andato in pensione a? Sono andato in pensione 2 anni fa, 75, adesso sono professore emerito di urbanistica e continuo a frequentare l'università, come si diceva un attimo fa, per fare ricerca e, devo dire la verità, per divertirmi a fare cose che non avevo fatto finora. Un po' troppo è stato, no? In cattedra. Parecchio. No, dico un po' troppo, secondo, no, voglio dire. Certo, rispetto a quello che si dice. Volevo però fare una piccola considerazione. È da anni che lo shock è in atto ed è da anni lo shock in atto perché è da anni che non vengono banditi concorsi e quei pochissimi che vengono banditi significano un nulla rispetto all'esodo naturale che c'è stato in questi anni. Qui ci sono due cose che vanno chiarite. La prima è la spesa pubblica. Se la linea del governo del Parlamento è quella di ridurre la spesa pubblica in generale, e tra la spesa pubblica ovviamente ci sono gli stipendi dei professori e del personale universitario, è evidente che il cosiddetto rinnovamento, ancorché generazionale, va pesato in funzione della spesa pubblica. Il secondo discorso è che nell'università, contrariamente alla magistratura, per esempio, o al notariato, per esempio, o ad altri tipi di concorsi che immettono nelle professioni, non si fanno i concorsi con cadenza annuale, perché se si facessero i concorsi con cadenza annuale il problema dei giovani non ci sarebbe, e soprattutto non ci sarebbe il problema dello shock di cui stiamo parlando. Ma non ci sarebbe, professore, se state così tanto sulla cattedra. Lei ci ha detto fino a 75 anni, 19 anni rettore. Ha perfettamente ragione, però c'è un vuoto generazionale che prescinde dal fatto che ci siano i vecchi. perché i vecchi ci sono e ci rimangono finché la legge ti consente di rimanere. Se si cambia la legge, evidentemente vanno a casa. Questo è il tema. C'è immediatamente, non c'è pronta la scorta. Se ci sono molti giovani, scrivono libri, ricercatori, siamo andati all'estero. Sotto questo punto di vista sono bravissimi, non c'è dubbio. Non solo fanno anche docenza, fanno ricerca, eccetera. Però gli spazi sono dosati in funzione, come dicevo prima, della spesa pubblica. Perché invece di bandire, faccio un esempio, a Cagliari, 20 posti di seconda fascia o 20 posti di prima fascia, ne dovremmo bandire 50. Ma se non ci sono le cattedre poi? E dove insegnano se non ci sono le cattedre, se sono occupate da voi nel senso? Ma no, le cattedre ci sono, perché c'è stato un esodo in questi ultimi 10 anni pazzesco. Io ho vissuto una mia esperienza, eravamo 4 professori di prima fascia di urbanistica a Cagliari, adesso non ce n'è neanche uno, ci sono soltanto 2 professori associati. Vabbè, professore, intanto rimanga con noi, mi faccia introdurre anche l'altro ospite, che è il professor Girolamo Cotroneo. Buongiorno professore. Buongiorno. Se buongiorno. Lei è in pensione da qualche mese, dal primo novembre ha insegnato insegnato all'Università di Messina, filosofia, sì, fino a 75 anni. Un momento, 72 l'insegnamento, sì, poi 3 anni di fuori ruolo fino a 75. Lei ha fatto anche ricorso al TAR di Catania qualche anno fa, perché in finanziaria aveva messo una normina piccolina che diceva in pensione prima. Lei ha fatto ricorso, è stato l'emblema, insomma, di quello che ha fatto ricorso e è stato identificato come quello, ma come ancorato alla sedia dell'insegnamento, non la mollo, ecco, che ne pensa? Perché ha definito miope, insensata e sbagliata la proposta di Maria Chiara Carrozza? Aspetti, chiariamo un punto, la prima questione che lei ha introdotto, il famoso ricorso per restare ancorato. Quel ricorso è stato il ricorso di un cittadino il quale vede violato un suo diritto costituzionale ed ha tutte le ragioni ad opporsi. Tant'è vero che la Corte Costituzionale ci ha dato ragione. Era un diritto costituzionale che ci è stato negato. Se tutti i cittadini, quando viene loro negato un diritto istituzionale, avessero la possibilità, io l'avevo, molti altri non ce l'hanno, di ricorrere, forse in questo paese si vivrebbe meglio. Questo è una cosa, perché nessuna legge può avere valore retroattivo, come quel comma, un misero comma di una legge finanziaria che cambia lo stato giuridico di una categoria. Questo sì, lei ha detto, io ho tutelato un mio diritto, però il risultato è che diciamo lo ha fatto per rimanere, cioè quello che è venuto fuori, l'immagine che è venuta fuori. Io sono rimasto pochi mesi, ormai me ne ero praticamente andato. È stata una questione proprio di rivendicare un diritto costituzionale. Perfetto. Non mi potete mandare via con una legge che ha valore retroattivo, perché la legge non può avere valore retroattivo. Non era una questione, io odio la parola Baroni, anzi non mi piace molto neanche parlare di me, le dirò che io ho lasciato l'insegnamento un anno prima per lasciarlo a una mia giovane allieva che aveva i titoli per farlo, quindi non era nessun attaccamento. Veniamo alla proposta, perché lei l'ha definita in un'intervista alla stampa insensata, miope e sbagliata? C'è qui Maria Chiara Carrozza, che è la fautrice di questa proposta. Io un altro, ho visto che nell'intervento precedente sono stati introdotti come dei correttivi, dicendo vabbè, li mandiamo in pensione da un punto di vista amministrativo, però quelli che sono ancora a ridare un contributo, vediamo, troviamo un modo perché possano continuare a farlo. E io su questo non avrei nulla in contrario, le dico. Il problema è un altro, il problema è questa improvvisa e brutale, come si può dire, rottamazione davvero di tutti i professori in una stagione in cui possono dare ancora molto. Questo è un com'è la frase, lei che è filosofo, com'è la frase di Hegel che lei ha detto alla stampa? Ho detto che la nottola, cioè l'uccello di Minerva, la nottola di Minerva esce sul far della sera. Cioè la le cose si capiscono, l'intelligenza, la nottola, sì, che la civetta, diciamo. Sì, certo. Esce sul far della sera. Cioè, e man allora, mano che si diventa grandi, diciamo così, si diventa più saggi, maturi, saggi, più capaci, più colti. Questa è una frase bellissima. Questa è una frase bellissima, no, però vorrei tornare dalla che le volevo dire, questo era, vede, qui ci sono tante differenze. Appunto, quando dicevo quei correttivi, se sistemati in qualche modo, a me vanno benissimo. Io in fondo, come il collega che ha parlato prima di me, sono pure io professore emerito, continuo ad andare in facoltà, faccio le lezioni agli studenti del dottorato di ricerca, quindi continuo praticamente la mia attività. Il problema è un altro, poi lavoro a casa, eccetera. Però il problema è un altro, che cosa fa con un fisico, un chimico, quando lei lo mette fuori dell'università e non c'ha più il laboratorio? Ho capito, ma se c'ha 70 e rotti anni, voglio dire, va. No, intanto stiamo parlando dei 65, non dei 70. Ah, vabbè, 65 anni, come tutti i 65 anni che vanno in pensione, come un metalmeccanico, un giornalista, un... cioè non capisco in che senso, continuerà il laboratorio un giovane, no? Non è la stessa cosa, non mi dica che è la stessa cosa, per carità, in fondo con tutto. Ma in che senso non è la stessa cosa? Il lavoro degli altri, ma le funzioni sono dai 55 ai 65 anni trasferirà tutta la sua scienza e conoscenza a un giovane, che a un suo giovane allievo che proseguirà. Sì, e nessuno garantisce che, andato via io, al mio posto andrà quel giovane allievo. Questo è un punto fondamentale. La possibilità di scegliere, lei dice, già guardi, non entri sui concorsi che già dicono, ci mandano i messaggi, ma se i concorsi sono tutti pilotati e si sanno, vabbè, ma questo è un altro tema, vuol dire tangenziale come tema, però devo andare al traffico, poi siccome un po' di opposizioni le abbiamo raccolte, Maria Chiara Carrozza replicherà, io dico solo questo, il professor Azor Rosa, filosofo, ha detto, io sono andato in pensione a 70 anni, ho compiuto un gesto eroico nell'ambiente. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora, detto che votando su Radio24.it per ora l'85% di chi sta votando dice siamo favorevoli a questa proposta, questo shock generazionale, in pensione prima 65 anni. Diamo un paio di ascoltatori, poi torno alla Maria Chiara Carrozza. Alessandra da Milano, buongiorno. Buongiorno. Che dice? Io temo di essere controcorrente. Bene, dica. Io sono un docente universitario, sono un professore associato e ho comunque davanti a me ancora una ventina d'anni di carriera. Mandare in pensione a 65 anni così improvvisamente rischia di avere degli effetti deleteri se non ci sono dei correttivi. Faccio un piccolo esempio, io sono un'università relativamente giovane dove però per il fatto che i concorsi non sono regolari e ci sono state delle immissioni diciamo così anche per Ope Legis, una serie di docenti sono entrati un pochino tutti negli stessi anni. Quindi questi lei dice docenti... però questo è un aspetto normativo, ma l'idea di fondo, cioè l'idea, capisco che anche Maria Chiara Carrozza dice uno shock generazionale, sarebbe una cosa forse un po' forte, ma l'idea di ringiovanire così, dare ma proprio... non è questo il modo, non è questo, cioè il modo. Io sono d'accordo che deve essere ringiovanita l'università, ma non è mandando a casa ex abrupto il professore a 65 anni. Non è questo il modo. Va bene, la ringrazio Alessandra. Voglio andare a Reggio Calabria da Demetrio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io volevo intervenire, mi sembrava interessante la proposta della dottoressa Carrozza. E vivendo noi in questo momento un periodo complicato sotto diversi punti di vista, l'idea di creare una sorta di svecchiamento, un colpo di mano, mi posso anche rendere conto che è una cosa complicata, difficile, mal digerita, eccetera, è un'idea positiva, proprio per svecchiare tutto il comparto e comunque creare un volano diverso nei confronti di tanti. Quindi giovani. Non è vero che non ci siano i ricambi ci sono dentro le università, sono giovani che vogliono crearsi, avere certezza di carriera e che spesso per molti motivi non ce l'hanno. Però interessante Demetrio, quello che ha detto, io intanto la ringrazio, quello che ha detto anche il professor Cotroneo, vorrei tornare da Maria Chiara Carrozza, no? Sentito il professor Cotroneo, intanto non c'è la certezza che io mi possa scegliere quel giovane che ho formato all'università e poi insomma risponda un po' alle obiezioni, no? Che anche il rettore, l'ex rettore Mistretta ha fatto. Certo, dunque intanto io vorrei spostare l'attenzione. Prima di tutto abbiamo sentito parlare del problema dei docenti che devono a 70 anni poi andare in pensione, abbiamo sentito il problema dei docenti professori associati che sono entrati tardi e giustamente si vedono penalizzati due volte, però io sposterei anche sui ragazzi, i giovani, i ricercatori che in questo momento non hanno nessuna opzione, cioè noi non stiamo dicendo di mettere per strada qualcuno, stiamo dicendo di andare in pensione, una buona pensione, e stiamo dicendo che invece ci sono giovani che non hanno nessuna speranza che potrebbero entrare nel sistema universitario. Ha sentito Cotroneo, la nottola esce sul faro della sera. Sì, ma io questo non lo metto in dubbio, sono stata io la prima a dire e lo faccio anche nella mia università, ho proposto dei contratti per fare ricerca e andare in laboratorio a chi è andato in pensione, ma il problema è rovesciato, il problema è di chi non ha nessuna opzione in Italia ed è costretto ad andare via. Il problema vero dell'università in questo momento, anche alla luce della manovra appena presentata e di chi ha una responsabilità di governo dell'università, è che i giovani bussano alla porta e dicono che se ne vanno per gli Stati Uniti, per l'Europa, per adesso, in futuro per la Cina. È questo il nostro futuro, è questa l'opzione che noi diamo. Siccome io ho un diritto, devo rimanere fino a 75 anni. Ha capito anche tra l'altro, posso dire che molti rettori in molte università stanno proponendo dei provvedimenti cosiddetti di rottamazione, estemporanei, studiati localmente per incentivare. Allora, perché non pensare a un provvedimento nazionale, anche temporaneo, però un provvedimento che dica: in questo momento l'università italiana ha bisogno di un ricambio e ha bisogno di dare una speranza e un futuro a chi fa ricerca. Ha sentito, per esempio, no, si fermi, mi stretta, ha sentito il fatto che state lì, i giovani se ne vanno all'estero, i giovani vanno via perché state lì voi. No. Scusi, voglio fare un esempio sul sistema sanitario. Un professore di medicina, non chirurgo, perché i chirurghi hanno difficoltà particolari, un professore di medicina che va in pensione può essere assolutamente riutilizzato dal sistema privato per fare ancora il professore di medicina, ovvero per fare il medico di alto livello. Allora, se noi non risolviamo anche il problema tra università private e università pubbliche, tanto da evitare che le università private possano godere del privilegio di prendere i 65 anni e di sfruttare la loro capacità per ingaggiare clienti pagando prezzi altissimi di tasse, o meglio pagando tasse altissime, noi facciamo uscire dalla finestra un certo tipo di materia e la recuperiamo dall'altra parte, creando una concorrenza spietata a questo punto tra giovani e vecchi, tra virgolette, in un sistema che non fa chiarezza tra pubblico e privato e che soprattutto tende fondamentalmente alla privatizzazione. Ecco perché anche il Partito Comunista, a mio giudizio, sotto questo punto di vista dovrebbe perlomeno scegliere dove vuol parare. Chi è il Partito Comunista? È soltanto un fatto di famiglia. Mi stretta, il Partito Comunista non c'è più, no? Beh, vabbè, il Partito Comunista, perché mi è venuto il Partito Comunista perché era una cosa seria. Ah, ecco. io sono uno che viene dalla sinistra, quindi era una cosa seria. Senta, ma Mistretta, il problema del conflitto è che il fatto, dice Maria Chiara Carrozza, che voi state lì, non la sposti sul pubblico privato, cioè il fatto che occupate a lungo, adesso non più voi, queste cattedre, e i giovani bussano e sono occupate quelle sedie, no? Assolutamente d'accordo, a condizione che ci sia un ritmo di concorsi che prescinda dalle decisioni governative anno per anno, che prescinda dalle leggi finanziarie e che prescinda soprattutto dalle scelte localistiche. Questo è il punto. Nel sistema sanitario, per esempio, ritorno su quello, anche se a un certo punto io sono un ingegnere, nel sistema sanitario c'è un accordo Stato-Regioni per stabilire le quote di matricole, per stabilire le quote di specializzandi, per stabilire le quote di assunzione nel sistema sanitario pubblico. Bene, all'università questo non esiste, e allora all'università non medica questo non esiste, il che significa evidentemente che non c'è una disparità di trattamento tra un sistema pubblico che si autoregolamenta privato, e un sistema che invece ha ruota libera. Concludo, lei professore ieri, parlando con il nostro Guido Scotti, ha detto: ma come se io non sarei contento di andare in pensione, c'ho mio figlio qui ricercatore, questo è un altro bel tema, però ho un figlio di 45 anni che li infila ormai da almeno 10. Questo non è un altro problema, quello del nepotismo, non l'abbiamo toccato. Sì, vabbè, ma quello l'abbiamo già affrontato in altre serie, che questo è un altro di quei problemi che si vede soltanto all'università, negli altri sistemi e negli altri filoni di carriere. Sa perché si vede più in università? Perché si vede più dove c'è un concorso pubblico, uno deve vincere. Se il figlio del giornalista fa il giornalista, è una professione, ma dovendo vincere un concorso pubblico. Su questo discorso che abbiamo già affrontato, io sono stato già messo in conto in gioco più volte su questo argomento. Non riapriamolo anche perché abbiamo concluso il tempo. Io vi ringrazio tutti, Maria Chiara Carrozza, Pasquale Mistretta e Girolamo Cotroneo, per essere stati con noi. Università e svecchiamento dell'università, che ne pensate di questa proposta di svecchiare così, abbassando la pensione a 65 anni? L'85% dice di sì per ora. Su Radio24.it do la linea Oscar Giannino, la manovra, anche oggi la manovra che si profila sempre di più, e ormai si sanno i contenuti, alle 3 ci sarà poi la conferenza di Berlusconi, la manovra Oscar Giannino, noi ringraziando Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia, do la mail, bianco o nero, e radio24.it, a domattina.